Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, buona serata a tutti, sono le 21.08 minuti in questo istante, oggi è martedì 15 febbraio del 2011, buona serata da parte di Flavio Bilato e dall'altra parte del vetro, sempre in buona compagnia, Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Benissimo, allora abbiamo stasera, siamo in compagnia di Carlo Mazzoli che arriva da Roma. Sì, Roma. Oddio, in verità è ciampino, quindi sono nato a Roma però, quindi... Sei nato a Roma. Puro sangue. Vivi da Roma, praticamente hai fatto un bel viaggio per arrivare qui a Padova. Non c'è male. Non sì. C'è male. Assieme al tuo tastierista? Lui è venuto in treno. Ah, è venuto in treno lui. Tu sei venuto in macchina e voi due siete venuti... amico. Siete venuti in macchina, voi sì. Due in macchina e lui in treno. Esatto. Perfetto. Un viaggio bello, sì, divertente, sì, un po' sconnesso. Però è importante perché sei venuto qua, perché devi presentare il tuo EP, questo tuo disco nuovo che hai fatto. Esatto. Un EP che ha un titolo in inglese a preludio di quelle che saranno le canzoni che sentiremo questa sera, Carlo. Allora, un titolo molto importante, molto intimista, Me in the Raw, che vorrebbe dire io al naturale. Esatto, sì. Io come sono. Quasi a crudo, diciamo. Così, a crudo, allo stato grezzo, come si potrebbe ulteriormente tradurre nel Me in the Raw, no? Quindi il raw material, la materia prima, cioè da cui viene costruito tutto. Quindi questo raw in te stesso cosa provoca? Come mai il titolo di questo album? Beh, essenzialmente perché effettivamente sono solo io la chitarra, forse salvo qualche canzone che c'è anche una... cioè un intervento di tastiera, sì. Insomma, quindi una cosa molto, molto essenziale. E fondamentalmente perché queste canzoni sono nate forse nella mia stanza o comunque appunto dalle mie sole forze, quindi mi sentivo... Quindi il tuo studio di registrazione è in una stanza da letto, diciamo, tra letto e sì. Scrivania, si di può dire di composizione, registrazione... Certo, la composizione si fa seduti tranquillamente... proprio nel letto e si strimpella, si suona la chitarra finché non escono delle sonorità come quelle che io e Maurizio abbiamo avuto modo di ascoltare in questo disco che stasera presenteremo anche ai nostri ascoltatori di Blu Radio Veneto. Con molto riverbero, una delle sonorità con la chitarra con molto riverbero, con molti giochi nel senso positivo del termine dal punto di vista sonoro, vero Carlo? Sì, quella è stata una scelta... un po' in base alle influenze che avevi, sì, che hai direttamente e anche del ragazzo che sì. È anche produttore del disco che ti ha seguito, insomma. Esatto, abbiamo deciso di fare questa ondata di riverbero, quindi però sì, forse cattura meglio le emozioni del momento. Sì, acustica, ma acustica d'accordo, però tra virgolette, un acustico tra virgolette, secondo me. Sì, sì, certo. Ok. Allora, Maurizio, visto che siamo partiti anche con un leggero ritardo perché abbiamo avuto qualche piccolo problema con... abbiamo pagato la bolletta dell'energia. Quello il discorso. Effettivamente l'abbiamo provata tutto in regola, ogni tanto il bello della diretta, si sa, senza energia però per pochissimi minuti. E allora cominciamo subito con capire quella che è la musica di Carlo Mazzoli presentando un pezzo subito da disco e quindi per entrare nell'atmosfera delle musiche proposte da Carlo direi che potremmo iniziare con All Black Days, se siete d'accordo? Sì, come no? Benissimo, allora l'ascoltiamo e poi torniamo a commentarlo insieme sempre qui su Blu Radio Veneto. Leave me alone. You've had your chance to say everything you could. Complete the picture. Well, hold on. The past that I've known. But what if those were all black days? Like all the other black days. Hesitation going by feeling good. A cold that stings to gaze at the bottom. And at the start sometime, oh, the love gone in a while. You make me feel like those were all black days, just like all the other black days. Black days, black Radio Sera. Blu Radio Sera. E ci siamo ascoltati questa All Black Days, tanto per definire quella che è la musica di Carlo Mazzoli che abbiamo qui in studio con noi. Abbiamo ascoltato Me in the Row. Allora Carlo, com'è nata questa atmosfera, questo testo che per chi ha capito l'inglese risulta amaro in un certo senso? Sì, io questo testo amo definirlo dolce e amaro. Nel senso che è vero che insomma ci sono delle atmosfere oscure, ma allo stesso tempo è anche esasperata la visione del protagonista, insomma. È ispirato appunto una storia di un amore praticamente buttato, insomma. Quelle storie di fine rapporto, no? Di come non sai mai di come comportarti con l'altra persona. Questa è All Black Days, insomma. Una persona che vuole buttare tutto e l'altra invece che vorrebbe tenere dei ricordi. Musicalmente è leggermente psichedelica. Cosa dici? Una psichedelia fatta bella, una psichedelia non invadente. Sì, quello è una chitarra elettrica accordata in reaperto, suonata con lo slide. L'idea di fare questa accordatura, come l'hai buttata? Assieme al tuo compagno di avventure praticamente. Sì, insieme a Ernesto appunto, che avevamo un piccolo Leslie fatto a mano praticamente, e quindi abbiamo deciso, detto, perché non proviamo questa cosa. Esatto. È stata una prova di certo. ben riuscita secondo sì, me. Sì, molto, sono molto soddisfatto di come è. Allora, mentre il pezzo andava, io e te parlavamo dei Grantley Buffalo, non perché sono i Grantley Buffalo, perché c'è un input, c'è un DNA che vi lega, sia pure ideale chiaramente. Non so se tuo, ti chiami di nome Daniele è d'accordo anche lui. Può parlare anche a Daniele. Certo, certo. Lui viene da una sfera diversa. Diversa. Diciamo nasco con rock progressivo anni 70. Sono... Rock progressivo anni 70. Shiva Bullex, che sono la prima band di Gretchen Bach aveva un po' di progressive, no? Cosa dici? Cosa dici, Carlo? Sei d'accordo? Beh, sì, è una band particolare, varie influenze, quella dark, quella più roots americana. Sì, perché no? Possiamo approvare questa scelta. Quindi questo tuo tentativo di fare le cose, di creare il pezzo con delle attinenze, sia pure ideali, assolutamente ideali, sì, visto sì, che il pezzo è assolutamente tuo, però c'è questa movenza, questo ricordo che io ho, visto che ho una certa età, sono un po' più vecchio di te, sì, e amo particolarmente Shiva Burlesque prima e Grant Lee Buffalo dopo. Ma sì, io ho un legame un po' particolare, mi ricordo che la prima volta che li ho conosciuti è stato tramite cassetta. Mio fratello faceva il militare, un ragazzo gli ha detto senti di questi, io avevo Fuzzy, fatto sentire Fuzzy, e c'era anche pure Mighty Joe Moon, era 94, esatto, sì. Quindi io ero a casa, 8-9 anni, ero un grande fan degli U2, però mi piaceva prendere tutte le cassette e ascoltarle. Forse ero più ascoltatore allora che adesso, forse. Ah, ho capito. C'era più tranquillità. Io ricordo di aver preso il vinile all'epoca di Fuzzy, di Grand. Lui è d'accordo, anche lui. Esatto, e quindi da quel giorno, diciamo che in realtà poi mi sono innamorato di loro, però poi l'ho lasciati per tanti anni. Li ho riscoperti ormai da svariati anni, forse 4-5 anni, e ho capito. Teniamo di parlare di Grant Lee Buffalo, parliamo di te. Ah, più certo, importante. Certo. Grant Lee Buffalo, sì, d'accordo. Sì, sì. È un'altra dimensione, praticamente. E l'approccio musicale, mentre il microfono era spento, mi parlavi di un qualcosa che è nato e poi sei arrivato a questo album da solista. Lo ampliamo, quel qualcosa che è nato all'inizio. Sì, certo, era una necessità di non perdere quello che avevo fatto, le mie emozioni. Ho un po' questo timore proprio come personalità, ho paura che i ricordi poi se ne vadano, quindi ho voluto, diciamo, inscatolare in quel pacchetto di cartone queste emozioni. E questo pacchetto di cartone sono stati questi sette pezzi, mi pare. Sì, sì, sono sette brani. Sette pezzi, questo EP praticamente. Sì, sì. Da solo, però. E come dicevamo prima, sì, no, gli ascoltatori non lo sanno, però. Certo, certo. Scusate. Sì, nasce dall'esigenza appunto di esprimermi da solo, in quanto le varie esperienze non sono sempre state soddisfacenti. Forse sono io che, quando sto con altre persone, forse sono un po' troppo invadente, no, non so, forse sono non troppo dittatoriale. Cioè, la collaborazione fra musicisti varia. Esatto, ci sono degli equilibri particolari, esattamente, sicuramente. Esattamente. Quindi hai deciso di fare questo disco da solo, per provare l'esperienza da solo. Non è mica facile, come tu mi hai detto, al microfono spenti, l'esperienza da solo. Esatto, no, assolutamente difficile. Quindi una cosa che poi, tra l'altro, è maturata mentre la facevo, non era molto premeditata. Esattamente. Infatti è ancora più essenziale di quanto possa sembrare, cioè, già un nano scheletrico, però uno scheletrico fino a un certo punto, secondo me. Sì, non è sì, proprio scheletrico al 100%, sì, non sì, proprio lo-fi, non è lo-fi, è leggermente diverso dal lo-fi. Sì, poi quando sei in studio ti reinventi un pochino, no? Esattamente, esattamente. Quindi. Decisamente. E parliamo anche, a me interessa anche questa copertina, come l'avete fatto? Dove l'hai fotografato? Quella Villa Borghese. Ah, Villa Borghese a Roma, quindi chiaramente. Sì, sì, da un fotografo amico di mio fratello, molto bravo e conosceva questo posto, che poi sta vicino al giardino, insomma vicino allo zoo, l'ex zoo, quindi è una cosa molto, posso pure un po' più particolare, un po' più, come si dice da noi, appartato. Quindi, sei messo qua, hai deciso di dare la copertina del disco con questa fotografia. Sì, sì, sì, sì, sì. Cioè, l'ispirazione, cantautore, sì, un cantautore acustico, perché qua c'è la chitarra acustica, però è un acustico un po' particolare, non è proprio un acustico, cioè con qualche finamento elettrico, qualcosa di psichedelico, quindi un acustico un po' più corposo, secondo me. Sì, si sente che è stato fatto nel mentre che cercavo di dare maggiori input al mio progetto, al mio trio Dead Bouquet. Cioè c'è un, esatto, musicalmente che valore ha musicalmente, dove andava a parare il trio praticamente, possiamo dire Grant Lee Buffalo. no. Diciamo che tante band mi piacciono, a volte prendo anche la chitarra elettrica, mi piacciono anche i Dream Syndicate. Quindi psichedelia pura, esatto, sì. Esatto, sì. Quindi diciamo quella scena americana, sì, come fondamenta e però alla base di tutto, come nel disco, ci sono le mie canzoni. Alla base di tutto ci sono le tue canzoni. L'idea di fare queste canzoni, sì, te è nata perché volevi praticamente portare avanti un progetto da solo. Ma come si sono costruite le canzoni? Sono datano di poco tempo o sono canzoni che avevi già nel cassetto da un po' di tempo? Ok, bisogna svelare questo mistero. Bisogna svelare, sicuramente non si ascolta. Allora, diciamo che le più nuove sono forse Part Time Girl, Without Warning. Mm. Le Lanterne, che è un brano italiano che io stesso ammetto che è un, sì, più un esperimento, pezzo, esatto, è più un esperimento che altro, certo. È una voglia di provarci, insomma, che poi, parlandoci chiaro, se proprio ci devo provare, il pezzo meno indicato è proprio Lanterne, perché cambia tre volte, esatto, è un pezzo è molto complesso, esatto, decisamente come pezzo, per niente ascoltabile. È ascoltabile, però non è troppo facile, esatto, possiamo dire questo. Esatto. Invece magari, ecco, altri pezzi erano, sì, forse dei pezzi chiusi nel cassetto. Mm. C'è Have You Ever con la chitarra elettrica, che me lo portavo dietro da tanto tempo e non ero mai riuscito a dargli quell'identità. Invece lì sono riuscito, non l'ho voluto tirare fuori. E... Hai fatto un bel lavoro, secondo me. Non è mica semplice... mostrarsi da solo, come tu hai detto, è un po' difficile. Sì, ci vuole il coraggio. Ci vuole il coraggio, esattamente. Vabbè. Flavio, cosa dici? Un altro pezzo lo mettiamo su? Ci facciamo un pezzo dal vivo? Ah, facciamo come un pezzo, no? Dal vivo. Sì, okay. dai che così proviamo il bello della diretta, proviamo anche la strumentazione, a capire come siamo sistemati. C'è stato un po' di problema, qualche fischio all'inizio, non era il nostro pubblico, che anzi è molto attento. Era solo una questione di cuffia che litigava un po' col microfono. Allora, cosa ci fai ascoltare, Carlo? La prima traccia, Part Time Girl. Benissimo, ecco qua, da Blu Radio Veneto, questo Me and Row, cantato da Carlo Mazzoli, con questa bella canzone che andiamo ad ascoltare. Into a shell, my little part-time girl. You'll only hear better, my little part-time girl. My little part-time girl. To set eyes. See the rain. Ok, bellissimo, decisamente bello, affascinante, possiamo dire così, un affascinante anche alle 21:29, c'è poco da fare, sì. Il fascino non ha ore, non ha ora. Certo, il lavoro non storpia l'immagine. L'idea di fare questo pezzo con questa, l'hai qui, l'hai arrangiato in una certa maniera, visto che siamo qua. Sì. Però, tendenzialmente, com'era stato l'idea di arrangiarlo tecnicamente? Parli prima di entrare in studio? Sì, prima di entrare in studio. Era esattamente lo stesso senza lui, sì, e forse qualche cosa in più con la chitarra. Che... Però con la 12 corde a volte è meglio evitare. 6-12 corde hai usato in questo disco? Questo è sì, perché? Sì. Perché forse è l'unica chitarra acustica che ho. No. Non è proprio così. Sì, no, è una chitarra che mi ha aperto il modo di pensare. Poi, oddio, il giorno che l'ho comprata, in verità l'ho sonicchiata un pochino, ho detto oddio, questa forse che l'ho comprata a fa. E poi dopo qualche mese è uscito fuori forse qualcosa che con la 6 corde non... Quindi tutti i pezzi sono nati con la 12 corde o quasi? Quasi tutti, sì. Quasi tutti. Cioè, giusto... oddio, no, forse non... No. Sono tutti. Sì, sì. Okay. No, cioè, sulla Garonne, quella col titolo in francese, che io sono la 6 corde e la 12 corde da solo rinforzo. Ho capito. Quindi... E quando sei entrato in studio di registrazione, c'è stato qualche tassello attraverso Ernesto, si chiama... Come si chiama? Sì, Ernesto Ranieri. Ernesto Ranieri ti ha dato una mano, chiaramente, avete costruito l'assieme del disco. C'è stato qualche cambiamento secondo l'idea tua iniziale oppure è andato tutto quanti così? No, diciamo che i cambiamenti ci sono stati. Il piano l'ha suonato lui su Part-Time Girl, io non l'avevo minimamente pensato. Poi su All Black Days, appunto quella storia di Leslie, certo. E anche lì è stata un'idea sua, ci voleva da solo. Avete fatto tutto voi, autoprodotto tutto quanto al 100%? Al 100%. 100%. Anche l'organo che si sente in lanterne, che è una cosa molto particolare, quello è un mix esplosivo di cose strane. Cioè una tastierina, un delay, distorsori. Si fa così. Esatto, cioè, si sperimenta. Bisogna darsi da fare. È questo lo spirito. È lo spirito, deve essere così. Proprio indie al 100%, si può dire così. Sì, sì, sì. Poi con lui in sala facciamo queste cose. Lui è amante della Davoli. Adesso che qua dal microfono, adesso mi parli di queste cose. Cosa che fai in studio? Siamo appassionati estremamente di strumenti vintage italiani. Ah, bene. Quindi cosa hai a casa di strumenti vintage italiani? Forse, cosa non ha, forse la domanda. Cosa non ha? abbiamo testate valvolari della Davoli, storica casa. Storica casa. Parmense. Esattamente. Degli anni sempre 60-70. Poi abbiamo comunque acquistato da poco un banco della Mac. Scritto Mac. Ah, sì, me lo ricordo. Romana. Storico romana con un eco, diciamo, a nastro integrato con reverbera a molla, un banco con una cassa amplificata. Ah, tutti i nostri ascoltatori che sono esperti di questo stanno chiaramente alzando su la serie. Il chicchino della sala che non può mancare, diciamo, è il nostro Binson Eco Rec 2. Che cioè, per gli immortali, che cos'è? Per immortali è semplicemente un eco a nastro magnetico, usato poi tra l'altro da vari artisti, ma in special modo dai Pink Floyd, da Live a Pompei in Ecos. Incredibile. Ma usato anche da Leorme, anche in altri, da altri artisti italiani, ovviamente. Certo. Sempre prodotto italiano, prodotto dall'ingegner Binson a Milano. Però, bene. Quindi un ritorno al vintage. Sì, anche una testata geloso. Sì, l'ho trovata in cantina l'altro giorno. Una testata geloso, bene, interessante. 53, prima del rock and roll. Prima del rock and roll. Sì, poi ci dilettiamo nell'autoriparazione, modifiche, insomma, cerchiamo di sperimentare. Facciamo anche sgombri di cantine, puliamo camini. Bisogna darsi da fare, no? Sì. Per portare avanti la musica, praticamente. Questo è un bel discorso del vintage. Beh, ci sono tanti gruppi, cito uno di più importanti, Pearl Jam. Amano molto il vintage loro. Sì, loro sono forse molto dipendenti dal molto vintage. Dipendenti dal vintage. Ma il vintage è una bella cosa. Io ricordo, un mese fa è venuto un gruppo che ha portato una... In Veneto si dice una bestia, cioè un amplificatore enorme, valvolare, l'ha messo là, e ha determinati ritmi l'amplificatore valvolare, certo. Si deve accendere in una certa maniera, cioè, una cura certosina. Pesava un sacco, però era bello, visivamente, diciamo, era un capolavoro. La cosa a cui noi teniamo poi alla fine sottolineare però di non avere la visione consumistica. Ecco, quello è importante. Quello è importante, noi la viviamo in modo genuino. È importante. E non a caso per questo anche l'importanza di riscoprire prodotti italiani vecchi invece che magari cose più blasonate, sempre vintage. Certo, certo. Ricordiamo, state ascoltando, questo è Blu Radio Sera con Flavio e Bilato e Maurizio Calzavara. Abbiamo Carlo Mazzoli e il suo come ti chiamo? Daniele Fulini. Daniele, che collabora alla tastiera, e parla di questo EP, questo tuo disco, questo tuo passaggio musicale, praticamente questo tuo percorso musicale, che questo percorso musicale poi si addentrerà sempre dal punto di vista solista oppure ritornerà al trio, non si sa. No, il trio, diciamo che io ci punto. Tu ci punti, però stiamo facendo le audizioni per il batterista, anzi se siete in ascolto e magari trasferito a Roma, qualche batterista se fa qualche progetto da voi, quindi. No, ho provato un ragazzo di Vicenza, adesso ci penso, solo che si è spostato poi dopo un mese, è andato. No, ho capito. Quindi l'idea tua è di proseguire il discorso del trio, insomma. Sì, questo è stato solo un episodio bello, interessante, ma un episodio, insomma. In realtà io voglio dividere le cose. Ok, da solista e da trio. Esatto, magari vorrei pure tentare la strada in italiano. Recentemente ho fatto delle composizioni in italiano molto interessanti, almeno per me, che ho sempre avuto delle difficoltà con la mia lingua principale, perché proprio un discorso a forza di ascoltare musica americana. Ma l'antenna non è mica un pezzo semplice, è un pezzo difficile. Sì, però la voce non risponde bene come negli altri, quindi sono molto schiavo degli dischi americani. Ho capito. Comunque il trio, per ritornare al tuo discorso, che eri curioso, sono sempre con la 12 corde, solo che verrà distorta nel trio. Ah, bello, bello, bello. Molto sì, bello. E allora proprio lì Grant Lee Buff. La distorsione è una cosa. Però mi sento personale, insomma. Io ho una certa età, Flavio è un po' più giovane di me, però anche a lui la distorsione è sempre piaciuta. Sì, sì, no, non troppo, ma qualcosa, non troppo. Qualcosa. Ci piace il rock duro, insomma. Qualcosa, sì, sì, qualcosa di battente, cioè, piace anche a noi. Siamo giovani. Sì, sì, assolutamente sì. Poi, naturalmente, si passa con i gusti musicali, si va anche verso il jazz, però magari si comincia sempre con qualcosa che batte forte, no? Proprio da... che dà vigore, diciamo. Sì, certo. Bene, allora Maurizio, come possiamo proseguire la serata? Secondo me, un altro pezzo del disco, cosa dici? Visto che qua con la chitarra, con la tastiera, perché no? Facciamo un altro pezzo del vivo? Allora. Dai, va bene. Facciamo un altro pezzo del vivo, dai. Ok. Thing, you're a tear coming down from an old-fashioned goddess inside, roaming the universe for years, and brought to us by satellite. Are you trying to keep this one realm safe? Well, I can't see clearly, no. Confusion often stops late. Hey, little thing. Hey, little bingo. Hey, little thing. Whoa. So many doors here, and you even smell the kiss. I guess you're feeling so unique. It's close to the way we feel lonely and in between. And the thing, yeah, here come tales about people who drop the rope and sail it away. with bolt. A traitor for the shoes. Whoa. But you turned into a fish, and then you came as a whale. Hey, little finger. Hey, little finger. Hey, little finger. Whoa. Hey, little hey, hey, hey. Maurizio. Ok, bel pezzo questo qua. Se, è il terrore di tutti i DJ, perché è stroncato immediatamente. È per mettervi alla prova. Esattamente. Stavo per dire la stessa cosa, non ero assolutamente preparato. Vabbè, un pezzo molto, molto energico, oserei dire questo. Sì, decisamente energico. Questo fa parte del repertorio del trio. Punto. E c'è quella parte dove lui entra col piano che in realtà è una parte molto sfuriata, c'è una chitarra distorta. Ma hai aggredito il pezzo, decisamente, ha detto Flavio, giustamente. L'hai proprio aggredito in questo momento. Sì, nel senso positivo, chiaramente. Sì, è un brano di quelli che c'è una rabbia di fondo. Ok. Per quello. Mi sembra di capire atmosfere dark, rabbia di fondo... Graffi sulla pelle, c'è un po'... Sì, c'è disagio giovanile, disoccupazione, tutto quanto quello che... Tutto quello che sto vivendo. Tutto quello che stai vivendo lo scrivi sui dischi da ottimo e buon cantautore, voglio dire. Speriamo di diventare un ottimo e un buon cantautore. Voglio essere modesto, insomma. Diciamo di sì. Dobbiamo ringraziare Alberto Prisco, che è il nostro direttore artistico. Grazie a lui stasera sei qua. Ringraziamo la Chiara, che è la nostra fotografa, e anche la Cristina, che ci sta seguendo da casa. Okay. E che non è l'unica. Che non è l'unica. Sì, grande Alberto. Mi è andato a scovare. L'ha scovato, a trovarti, ti ha portato qua. È stato molto bravo, decisamente. Beh, lui sceglie sempre gli artisti di un certo livello, vero Flavio? Sì, beh, certo. Valutando anche tutti gli artisti che sono passati qui nei nostri studi, insomma, voglio dire che c'ha anche molto fiuto. Certo. Anche in questa serata Carlo Mazzoli conferma le carte giocate da Alberto in questi live proposti in questa serata. Anche se non è proprio fortunata, perché ci sono una serie di problemini tecnici, però li abbiamo in gran parte risolti. E tu hai scritto, hai detto: spero dunque che queste canzoni possano raggiungere le vostre anime e farla vibrare. Dopo tutto questo è l'effetto che a distanza di anni continuano a fare a me. Questo hai dichiarato in una intervista, ed è una cosa molto bella. Quindi sì, Vuoi trasportare il tuo feeling anche verso gli altri che ti ascoltano? Certo, sì. A volte le canzoni, appunto, a volte non puoi dire quella è una canzone, che tante volte c'è una carica emotiva dietro, c'è un momento, e alcune di queste del disco stavano per esplodere. Quindi sì, ho sempre la mia speranza è poter condividere la mia arte nel mio piccolo con il maggior numero di persone possibile. Insomma, è bello condividere, forse è qualcosa che non facciamo più oggigiorno nella società, condividerci e scambiarci le nostre cose, un rapporto più umano tra le... Questo è il mio desiderio, al di là di diventare famoso, no, quello non mi interessa. Va bene. Ma in effetti anche quello potrebbe essere, diciamo, una cosa vincente, cioè non partire per diventare famoso, ma... che c'è in gran parte anche dei cantanti, bisogna effettivamente dirlo, ma partire volendo dire qualcosa, sperando che il messaggio venga preso e poi naturalmente amplificato anche tramite le trasmissioni radio, tramite la vendita dei dischi, tramite le apparizioni televisive. Certo, è anche l'unica maniera per arrivare poi a una certa età e dire, magari guardandosi indietro, e dire però io il mio l'ho fatto. Certo. Invece che, no, come diceva Gareth Waits, disse che non accettava la sconfitta dettata dagli altri, ma solo alle sue condizioni, mi pare, proprio lui. Sì, mi pare parecchio. Io la penso così, insomma. Quindi. Non è mica, è una massima che si sposa perfettamente per un musicista, secondo me. E non soltanto per un musicista. Ecco, in generale. In generale. Ma allora Maurizio, cominciamo già anche con quelli che sono gli influssi che ha avuto Carlo Mazzoli nel scrivere queste canzoni, ovvero conoscere più da vicino nome, cognome e anche album di provenienza degli artisti che in un certo senso hanno plasmato, diciamo, la personalità di Carlo nel tempo, e quindi invitandolo anche a fare queste canzoni così preziose, così intime e così forti nello stesso momento. Allora Carlo, immaginando di dover fare un giro in un'isola deserta dove ormai troveremo migliaia di artisti che abbiamo anche invitato nei nostri studi, quindi ci sono ancora pochi posti a sedere nell'isola deserta, però vabbè. Arrivo sempre ultimo io, quindi. C'è ancora posto. Allora Carlo, ultimo perché naturalmente tu sei negativo, no? L'abbiamo confermato in questo, non sto scherzando. Ecco, quali sono diciamo gli artisti che ti hanno preso e ti hanno accompagnato? Beh, cominciamo per dire quello più... di Buffalo. Ok. Bravissimi. Fazi sicuramente. Fazi, un disco straordinario. Disco che più mi ha influenzato forse... Nella mia vita, quindi poi altri dischi che, ecco, riguardando la tracklist, mi viene in mente che Have You Ever, il pezzo con la chitarra elettrica, era nato con la chitarra acustica e ero molto ispirato dal primo di Ben Harper, che nonostante poi dopo secondo me ha fatto roba inferiore, parere personale, quel disco è veramente genuino e sì, quella è stata una grande influenza per quel tipo di folk così sottomesso, no? Poi uno sperimentatore Ben Harper, decisamente. Sì, sì, lui fa confluire diversi generi, certo, in maniera anche incredibile. Sì, sì. Io l'ho visto dal vivo ed è impressionante. Quando ci si mette, si sente anche il Live from Mars, no? Che è un doppio CD. Nel primo c'è lui in tutta la sua verve molto, molto potente. Nel secondo disco invece è lui in mezzo alla folla, solo lui, chitarra e voce. Sì, sì, lui è sicuramente un musicista dotato, parliamoci chiaro, io magari lo fossi. Beh, vabbè, ma visto che sei giovane di strada con la tua 12 corde, sì, ne farai. Ne ho da tempo da... Non lavoro, l'avevo detto, quindi il tempo c'è. Il tempo c'è. Poi ecco, vabbè, Neil Young è uno dei miei grandi... Quello elettrico o quello acustico? Ma tutti e due. Tutti e due. È grazioso. Neil Young penso forse è l'unico cantautore che riesce a far questo connubio in una maniera inossidabile. Lui è grande in tutte e due le vesti. Sono d'accordo con te. Certo, il mio disco preferito è On the Beach, che non è molto elettrico. No, assolutamente no. È stato riscoperto, cioè ripresentato, riproposto in chiave un po' più allungata, con dei pezzi in più recentemente. Esatto. Disco che stranamente non ha avuto molto successo all'epoca dell'uscita, non è stato considerato un disco minore, invece no, non è affatto un disco minore. Come Pet Sounds dei Beach Boys. Esatto, quello è un capolavoro assoluto. Sì, però per tanta gente è il disco minore dei Beach Boys. Esatto, invece non è per niente. Gran disco. Esatto, e quindi abbiamo scelto Neil Young. E poi? E poi, vabbè, altri cantautori, andando sempre negli anni 90, ci sono, piacciono molto anche Sparklers. Loro finto il povero Mark Linkus, sì, loro... che se n'è andato un po' di tempo, purtroppo, non un po' di tempo, col suo finto tempo. Lo fai perché esatto. In realtà gran cervello dietro le canzoni, sì, vari cantatori come Springsteen, Waits eccetera, certo. Quindi bene, ma anche il nostro tastierista deve dire le sue preferenze, vero Flavio? Cosa dici? Beh, direi proprio di sì, qua apposta, oltre a suonare deve parlare anche lui. Come ho detto prima, sì, essenzialmente tutto quello che è il rock progressivo anni 70 e soprattutto il riferimento magari a gruppi invece minori. Cioè quali? Come ad esempio gli Alpha Taurus, il biglietto per l'inferno. Sì, sì. È bravo lui, quindi sceglie cose particolari. Lui Dei gruppi trip. Sicuramente minori, sì, come la Locanda delle Fate, bellissimo, Museo Rosenbach. Sì, sì, insomma, sì, ne sì, potrei nominare tantissimi che magari non hanno fatto successo. La Locanda delle Fate. La Locanda delle Fate. Che sono arrivati un po' tardi rispetto al progressive. Purtroppo fecero, no, un disco nel 77, sì, e il progressive era quasi terminato. Giusto. Ma è uno dei dischi migliori. Che era quello delle lucciole, no? Sì, quindi, forse le lucciole sì. Si amano ancora. Ecco, no, non si amano è molto bello, però era leggermente fuori tempo, diciamo, fuori sì, tempo massimo. La sfortuna per cui... è stata proprio quella, certo. Diciamo, che rispetto comunque sia ad altri gruppi sono usciti leggermente dopo. Certo. È un bel esempio, secondo me, di rock progressivo romantico. Certo, poi anche tra i minori mi sembra siano catalogati anche i Trip, no? Con i Trip, Caronte. Li adoro tantissimo, sono veramente bravi. L'esempio, diciamo, di un gruppo misto, un po' inglese, un po' italiano. Sì, certo. Poi fu la prima formazione, ci sono anche Blackmore dei Deep Purple. Sì, è vero, Trip, è anche vero, se non sì. registrò è vero, vero. Nulla con loro. Che adesso si è dato al folk, Blackmore. Sì, sì, esatto. Richie Blackmore, dopo tutte queste esperienze, sta cantando e suonando con la sua attuale compagna sì, che adesso mi sfugge il nome, però Maurizio non ricordo il nome della sua compagna, però i dischi della chiave folk di Richard Blackmore ne ho sentiti più di uno e sono anche interessanti. Qualcuno dice sono un po' ripetitivi in qualche momento, però sai, il folk non è ripetitivo, fatto in questa versione può essere anche piacevole. Ti voglio dire una cosa, ti chiedo sì. Visto che ami praticamente il progressive, sei andato a vedere a Roma? Sì, sicuramente c'erano i Trip a Roma, ci sono lì, sapevo Trip, io li conoscevo poco all'epoca. Caronte, li ho conosciuti proprio in quel concerto e sono rimasto impressionato. Si sono ricostituiti proprio per l'occasione. Sì, sono rimasto impressionato a parte da Furio De Chirico, il batterista, ma soprattutto da Giovescovi. Giovescovi è un grandissimo. È veramente monumentale, insomma. Quella è stata una gran bella esperienza, un bel concerto, diciamo. Due giorni di musica progressiva incessanti con bellissime band, tra cui la mia band preferita che sono poi Le Orme con Tony Pagliuca. Mamma mia, Le Orme. Tra altre cose, a parte che venerdì prossimo ci deve essere proprio a Vicenza un concerto dove c'è Pagliuca assieme a Tagliapietra e a Tolomarto. Sì, perché si sono riuniti per adesso sì. Loro tre, non si chiamano Orme perché non Orme si chiama... è rimasto, diciamo, come di Michi Dei Rossi. Spero che un giorno loro tre, diciamo, riescano facciano le vere Orme. Anche perché le vere Orme, quando erano loro tre, assieme naturalmente a Michi Dei Rossi, c'era Smog Magica che andava molto bene con tutte le sue canzoni all'interno, che è fantastico. Era il 1975. Sì, per me però Le Orme rimangono collage. Ah, primo album. Anche se c'è Ad Gloriam prima. Sì, ancora prima. Però Ad Gloriam, 65-66 diciamo. Sì, cominciamo. Collage. Comunque se posso dire la mia sulle Orme, Felone Sorone. Ah, beh, Felone Sorone è un classico. Là c'era Peter Emmy. Peter Emmy. Esattamente. Sì, sicuramente è stato... Van der Graaf e via. Vabbè, allora ci perderemo ore e ore a parlare del progressive. Stiamo parlando con Carlo Mazzoli, con il suo tastierista che si chiama Daniele Fulegni. Eccola. Questo è Me in the Raw, quindi io al naturale, io così, a nudo. Allora, vogliamo ascoltare un altro pezzo da disco, tanto per prendere un po' di fiato e poi tornare a commentare insieme, oltre al pezzo, le altre belle musiche che ci propone Carlo Mazzoli. Allora, dal disco un'altra traccia che è Without Warning. Allora, l'ascoltiamo? Benissimo, vada. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Deep blue. shade, a dark blanket of smoke. Where hearts sing, flows and didn't sue. Most of the time, you're looking for someone. But sometimes you only need yourself. Endless crashes are on the walls. Where they always been long before. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E ci siamo ascoltati un altro pezzo da questo CD che ci sta proponendo Carlo Mazzoli, Me in the Row, e abbiamo ascoltato questa canzone, la traccia numero 4, Without Warning, quindi senza attenzioni, senza attenzione particolare. Come sì, mai? È un po' una canzone che va... Il protagonista è l'umore. Infatti c'è la parte finale in cui il protagonista è veramente preso allo sprovvisto dalle cose semplici e dagli stati d'animo. E è una canzone, sì, anche questa un po' oscura, un po' parte pessimista, insomma. Però poi quando dico, appunto, che quando parlo della tromba in una... in primavera, no? Una mattinata di primavera, e c'è il protagonista che sembra che si risvegli, insomma, quello è un po' un mio stato d'animo predisco. Le cose che non vanno, ma cos'è che non va, perché non riesco, perché non... E poi invece magari c'è l'intuizione giusta, no? Ma registra. Ah, è vero. Ma vengono sempre così, per caso, e sono i successi, le cose più semplici. Le cose più semplici sono i successi migliori, poi, e anche e soprattutto i pezzi che poi nel tempo durano, perché non è quel mordi e fuggi, ma è quel mordi e rimordi e riassapora, eccetera. Ricordiamo anche i nostri ascoltatori che Blu Radio Veneto in questa serata non è solamente musica da ascoltare, ci sono anche le nostre webcam che sono collegate sui protagonisti di questa serata. E ricordiamo quello che è l'indirizzo per usufruire questo servizio video, è diretta rockwave.tk. Ritornando a questo pezzo, è un pezzo molto bello, con bel arrangiamento. Non so se lo conosci, ma come arrangiamento, come struttura, un po' cupa, mi ricordava un musicista inglese, si chiama Paul Roland. Non so se lo ricordi, se lo sai. Lui non lo conosco di nome, ma non l'ho mai approfondito. Un musicista che ha molto viaggiato nel dark, ma un dark non un dark pesante, un dark nero al 100%, un dark con delle venature psichedeliche. e tu non c'hai il dark, però le venature psichedeliche, come abbiamo ribadito prima, ci sono, al di là di Grant, di Buffalo e di altre cose. Questo è un pezzo molto bello, molto d'atmosfera. Giustamente Daniele dice è il pezzo mio preferito, anche del sottoscritto e anche di Flavio. Sì. Un pezzo molto molto interessante, decisamente. Quello è stato proprio finito come canzone qualche ora prima del... Ah, vedi. Sono stato con lui a Montelivato in cerca di... a Roma, in cerca di ispirazione. Lui si chiama di nome? Alessandro. Alessandro, ecco, Alessandro. Tra l'altro un bravissimo poeta e romanziere. Bene, bene. Alessandro che stiamo inquadrando in questo momento assieme a Carlo Mazzoli, lui pensava di passare inosservato, ma non è stato così. No, non è stato così, assolutamente. Non ha bevuto, il suo colorito è questo. Abbronzato. Ha abbronzato tutto l'anno. Qualcuno ci farebbe la firma senza pagarsi troppe lampade. Allora, dicevi che l'hai costruito assieme ad Alessandro, questa idea è partita. Sì, eravamo insieme, l'ho terminata insieme a lui, per far capire proprio che il giorno prima di andare in studio ancora non era pronta. Ah, perfetto. Quindi sì, abbiamo deciso, lui aveva bisogno di ispirazione per scrivere, io anche... Sì, poi ho scritto io, lui guardava, però vabbè. Però ti ha dato una mano. Sì, una collaborazione velata. Velata. Quasi una telepatia, qualcosa che si sviluppa con la vicinanza, tipo... Oddio, un po' inquietante, però... con lui poi no. Insomma. Tipo un Bluetooth incorporato, diciamo così. Benissimo. Flavio, cosa dici? Facciamo sentire un altro pezzo da disco? O facciamo dal vivo? Dimmi. Allora, cosa... mi è stata fatta una richiesta all'ultimo minuto. Ecco. Io purtroppo voglio esaudire la richiesta a metà. Benissimo. Purtroppo quella canzone non me la sento, anche perché Grant stesso una volta in un'intervista aveva detto: ah, c'è qualcuno che fa... c'è un ragazzo, un tipo in Belgio che rifà Fuzzy, la fa spesso anche in televisione, cosa particolare. E lui l'aveva presa a giocare, non se l'è presa, però... l'ha detto al pubblico, insomma, l'ha lasciato intendere come quella è una canzone troppo personale, forse sono delle canzoni che manco puoi fare come cover, quindi diciamo sì, perché non fare un pezzo di Grant Lee Buffalo magari meno personale. Ok, benissimo, forse poi scopriamo che è il più personale, però. Ok. Just have to be crazy, don't you? You just have to be out of your mind. You just have to be crazy, don't you? You just have to be true or not. Have to be tattled on the head. You just have to be crazy, don't you? You just have to be true or not. True or not. True or not. You just have to be starry, baby. You just have to be chocolate cake. You just have to be starry, baby. You just have to be true or not. True or not. True or not. you just have, you just have. Whoa. Bellissima, svegliamo retroscena. La richiesta era partita dal nostro direttore artistico Alberto Prisco, che io avevo subito approvato al 100%. Carlo stasera non ha fatto Fazi, ma ha fatto un altro pezzo di Grant Lee Buffalo, che è molto molto interessante, molto bello. Complimenti Carlo, hai fatto una versione eccezionale. Grazie. Bene, Carlo, per parlare ancora della tua musica, c'è qualche difficoltà a proporsi in giro dalle parti di Roma, nel Lazio, dove tu frequenti abitualmente gli ambienti, come sono nei confronti della tua musica, di questa musica? Oddio, che tasto che hai toccato. No, mi rendo conto perché è un tasto, sì, davvero, cioè, importante, allo stesso tempo cruento. Sì, dire, dona pessimismo ulteriore a quello che è il pessimismo già delle canzoni, quello che si palpa, questo amaro, appunto, della disoccupazione che tu dici. c'è anche questo tasto dei palcoscenici. Beh, Si trovano? Che difficoltà ci sono? Ci sono tante difficoltà, perché poi Roma, come tutte le grandi città, a volte è un po' modaiola su tante cose, quindi le piccole realtà sono proprio completamente tagliate fuori. È un po' troppo. Poi c'è questa moda dei contest, che per carità potrebbero pure essere interessanti, però se tu fai suonare un gruppo il mercoledì alle 11:30, stai sicuro che, a parte i fedelissimi e la band che suonava prima, ma nemmeno, perché ultimamente ho visto delle scene che uno suonava, prendeva gli strumenti e se ne andava, mentre l'altro gruppo, cose irreali. E effettivamente forse è per questo che non voglio partecipare ai contest, magari poi lo dovrò fare per forza, però sì, è molto difficile. C'è una birreria a Marino, ci vado praticamente tutte le sere, mi sto forse compromettendo il fegato, però sono un amante della birra. Anche se a Marino si sa che c'è il buon vino, no, da quelle parti. Sì, sì, però io lì vado a prendere la birra. Il vino lo prende mio padre in Umbria, quindi lo fa mio zio. Quindi vado lì e hanno una situazione molto molto bella, molto intima, fa suonare solo il sabato. Quindi magari è poco come mole di musica dal vivo, però almeno suoni il sabato davanti a un pubblico che nemmeno è composto dai tuoi amici più stretti. Quindi è una situazione proprio che ti fa progredire. È gente che sa quella che sarà la musica che trova. È molto varia la musica, però sì, è indicato, e poi sì, sono comunque, è una specie di circolo, ma come le grandi scene anche in America, c'erano dei posti in cui le persone, come è successo poi ultimamente, 20 anni, 25 anni fa a Seattle, cioè era quello l'ambiente, si è sviluppato lì. Non puoi pensare, anche se adesso c'è internet e altri mezzi, non si può pensare di ovviare a queste cose così fisiche con dei link. Cioè io queste cose le vorrei vivere di persona nei locali, avere riscontri, influenzarci l'un l'altro. Come è successo a tanti cantatori dell'epoca, certo, a Tom Petty, Patti Smith, sì, certo. Gente che si è proprio presa a vicenda poi tante volte. Ma questo succede spesso all'estero, in Italia. Siamo un paese strano. No, siamo un paese un po' che non amiamo, amiamo coltivare il proprio orticello e basta. Questo è un errore, secondo me. Sì. E continuiamo a farlo. Sì. Okay. Sono 150 anni che esiste l'Italia nella sua integrità. Siamo sempre a fare sempre i soliti discorsi. Sì, poi siamo qui, un romano a Padova, mi sto trovando benissimo, al di là di quelle polemiche che ci sono di solito. Sì. Quindi le cose sono, la verità è altra. Certo, certo. I rapporti sono altri e il resto sono tutte cavolate. E poi c'è una cosa molto importante che ci unisce in questo caso, è la musica, che naturalmente l'arte, sì. È l'arte, che diciamo è la colonna sonora, o dovrebbe essere, della nostra vita. E senza, quella non muore mai. Senza troppi stress, ecco. Quindi la musica è quella che ci aiuta fino in fondo. Allora, una piccola pausa alle nostre voci per proporre ancora qualcosa su disco il disco di Carlo Mazzoli, che è venuto a presentarcelo stasera. Me in the Rose intitola il suo lavoro, e noi adesso ascoltiamo un brano che ha un titolo francese, però questo non vorrebbe ingannare la cantata, comunque inglese. Si intitola Sur la Garonne e poi torneremo a commentarlo insieme qui sui microfoni di Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, Sur la Garonne, Carlo Mazzoli. Un titolo francese per indicare innanzitutto il fiume, la Garonne, che è uno dei fiumi principali della Francia. Dopo la Senna penso ci sia lei. Sì. E comunque, come mai ti trovavi da quelle parti? No, argomento che volevo evitare, no, perché c'è, ho la mia ragazza che saluto, che è in linea e che si potrebbe adirare, però vabbè, lo sa. Sì, forse il mio primo amore è stata una ragazza francese e mi ha un po' tormentato, diciamo, il po' per tanto tempo, e quello è un po' quell'atmosfera della Garonna, l'ho voluta un po' ho cavalcato, diciamo, la canzone La Garonna, e parlando di questa storia di lei, di questo rapporto che non è tanto corrisposto, oddio, un po' emozionante. E quindi è una canzone di un amore passato, diciamo così. Sì, passato, finito, quindi ok. Però è stata una canzone importante per la svolta cantatoriale. Certo. Forse è proprio quella che mi ha consentito, il testo molto poetico, di passare a una maggiore identità, come magari ho dimostrato su questo disco. Quindi sono molto attaccato, la vedo come il mio punto... Non di arrivo, ovviamente, è un punto intermedio da dove ripartire. E quanto gioca quella che è la tristezza della musica francese a volte, tristezza nel senso, diciamo, puro e positivo? Sì, la malinconia francese, cioè, sono appassionato di quelle classiche fisarmoniche parigine, no? Quindi, sì, bandoneon. Sì, quindi non sono mai stato in Francia, onestamente, infatti la mia è una cosa... Forse è anche interessante, una cosa molto, molto mentale. Diciamo, certi percorsi che parlo nella canzone l'ho vissuto nella mia mente, quindi è stata una cosa molto, molto, molto poetica, insomma. Comunque, Roma-Francia, insomma, Roma-Bordeaux in quel caso. Roma-Bordeaux, sì. Non è vicino. Alle foci della Garonna, proprio. Esatto. No, mi sembra che sia proprio lì la foce. Sì, ecco, tra Bruges e Bordeaux. Ecco, Carlo, qualche data che possiamo consigliare ai nostri ascoltatori per venirti a vedere, sentire, per capire qualcosa di più della tua musica? E attualmente le serate in programma erano due, questa, poi c'è un'altra... Me l'hanno detto l'altro giorno, era mi pare l'ultimo sabato di marzo a quel locale che stavo accennando prima, si chiama The Spot Club a Marino, un gran bel posto, insomma. E per il momento poi sono un po' fermo perché è un periodo riflessivo e ho il trio in cantiere. Ah, ho capito. Volevo dire che c'era qualcosa in cantiere, perché quando uno comincia a dire riflessivo, devo fare altro, quindi c'è un altro disco allora, un altro disco del tuo gruppo. Sì, sono riuscito a fare un mini EP che purtroppo non so quando potrò stampare, perché basta, le risorse sono finite, quindi è inutile ostentare, basta. Certo. Ho venduto tutto a casa, vecchi libri, cassette del Nintendo, basta. Ecco, per avere qualche notizia in più sul tuo conto, oltre ad averti sentito questa sera per radio, i nostri ascoltatori cosa possono fare? Che sito possono andare a visitare? Il classico, forse ormai obsoleto, MySpace. Non è mai obsoleto abbastanza, nel senso che è sempre ben rinvigorito, sempre con gruppi nuovi. Alla fine è il più decisivo, alla fine, sì, secondo assolutamente me. Sì. Sì, ho il mio MySpace, .com/Carlo Mazzoli, tutto attaccato, e... ci sono, insomma, un blog che aggiorno più che altro quando ci sono delle news, e, le quattro canzoni su sette del disco. E se uno vorrebbe conquistare il tuo disco, come lo può avere, oltre a andare a Marino a fine di marzo a vederti? Allora sì, ho inventato un metodo piuttosto scarno di merchandising, quindi c'è un'email appunto sul MySpace, nel senso che se sei interessato al disco la contatti, e poi viene fatta la spedizione, c'è scritto il prezzo, comunque sono 5 euro addirittura comprese spedizione, perché lo vendo molto molto popolare. Assolutamente sì, anzi voglio dire ti fai onore in questo, perché voglio dire, in questo caso tu regali la tua musica, regali le tue emozioni a chi ha voglia di ascoltarle. Sì, non ha senso mettere dei prezzi proibitivi. Purtroppo esistono anche queste cose, anche se grandi artisti poi molte volte trovano anche la forza di riuscire a convincere le major, non so come facciano, forse solo per la grandezza della cosa, per riuscire a vendere un disco che abitualmente, non so, adesso nei negozi di dischi viene tra i 15 e i 18 euro, sì, mi sembra. Anche, no? Anche cioè, le novità si arriva anche a 19 euro. Che vedi. Però di solito poi prezzo dove, sui 15 euro chiaramente. Sì, conviene acquistare anche... su internet, però non è lo stesso fascino di andare a pescare il CD. È vero, quello è il discorso. Perché poi andare là, rovistare, fare, brigare, girare le copertine, questo è anche un antistress, e poi ti scegli naturalmente il disco giusto. Quindi sì, per carità, si acquista da internet, però andiamo anche un po' a curiosare, certo, nei nostri bei antichi negozi di dischi. Tra altre cose, tra poco tornerà anche il vinile, per cui ci sorprenderai anche con un vinile a questo punto, Carlo. Perché no? Vedi, è un'idea. Perché questa secondo me è proprio la musica classica da vinile, quella che tu stai proponendo adesso, che è su un supporto elettronico, questo nostro CD suona meglio sul vinile, secondo me. Ma va bene, ti abbiamo dato... È una buona idea. Ti abbiamo dato un'idea. Allora, abbiamo parlato della tua esperienza solista, ce la stai presentando adesso. Mm-hmm. C'è un qualcosa che riguarda un gruppo che si chiama Dead Bouquet. Sì, è il progetto su cui punto da sempre. E il trio, a volte, per quanto è affascinante, fa paura alle persone. Non sempre, alcune persone non mi hanno creduto agli inizi, alcuni se ne sono pure pentiti, perché magari insomma, il progetto è veramente, secondo me, è sicuramente meglio di Carlo Mazzoli solista. Più valido secondo te? È più universale, cioè sì, è più energico, non per sminuire il mio lavoro. Però a volte hai bisogno di una band, di qualcosa, di interagire con delle persone, di fare un'alchimia. Sono quelle cose uniche nella musica. Insomma. Che solo chi suona conosce fino in fondo. Esatto. Certo. Quindi, infatti alcuni brani di questo disco io li suono con il trio. Infatti sulla Carona che abbiamo appena sentito... E ha un tipo alla batteria con le spazzole, c'è anche una parte distorta, però sempre molto fedele alla forma canzone in realtà. Bene, allora sta girando da queste parti anche un CD che propone alcuni pezzi di questi Dead Bouquet, da te capitanati e condotti, se non ho capito male. Sì, da me è Pierpaolo Pastorelli, che è il mio amico bassista, tra l'altro molto bravo. E speriamo di trovare un batterista. Però là c'era nel CD praticamente, sì, era il vecchio batterista. Sì. Chiedo venia, è il pezzo numero 1 o il numero 2 che vogliamo far ascoltare? È il pezzo numero 1, Clouds, They Come Again. Benissimo, allora lo ascoltiamo subito e poi torniamo a commentarlo insieme, eh? Blu Radio Sera. Come again, right above my soul. I think it's time for a getaway, 'cause I get weak when I think too much. Not like you, I get your way here. You'd rather follow me. Will you cross this river? Will you put me down again? Oh, clouds, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, fasi conclusive della nostra bella intervista con Carlo Mazzoli, anche un appuntamento live, questo di Blu Radio Sera, per ascoltare la musica che ci ha proposto, tratto da questo lavoro che si intitola Me in the Raw, quindi ancora una volta la traduzione io messo a nudo, oppure io al naturale, vediamola come vogliamo. Comunque abbiamo sentito il vero Carlo Mazzoli, quello che sta iniziando la sua strada anche da cantautore, in un certo senso, diciamo cantautore, e che sicuramente ci darà altre emozioni, e sentiremo presto anche nei più grandi palchi, speriamo, diciamo, italiani e non solo, visto che se tu spedisci un disco di questi a Nashville te lo prendono, e come se te lo prendono. Non ci ho provato. Vabbè, magari sai, con internet tutto il mondo si avvicina, per cui magari anche un disco inviato via MP3, insomma, può interessare sicuramente. Certo, la pronuncia, per quanto è curata, però... No, non ti preoccupare la pronuncia, l'importante è il messaggio, no? Poi alla fine, dopo la pronuncia, per quanto bravo sei, si sente che sei italiano poi alla fine, no? Sì. Per cui, ecco, diciamo che comunque, secondo il mio modesto parere, vuol dire, si sente una buona pronuncia inglese. Sì, ci ho lavorato abbastanza, insomma. Bene, e in questo caso abbiamo ascoltato un pezzo del gruppo, quindi i Dead Bouquet. Vogliamo commentare, capire qualcosa di più di questo pezzo? Sì, questo è uno dei primi pezzi che ho scritto proprio in veste da cantautore. E, l'ho sempre pensato così, con queste alternanze tra chitarra acustica e chitarra acustica distorta, e, diciamo che lo vedo un po' come il brano di punta, forse anche per a livello di orecchiabilità del mio repertorio. È un brano su cui punto molto anche dal vivo, e racchiude la maggior parte delle mie influenze, insomma. Sì, Cream avevano White Room, e può darsi essere un tuo White Room anche questo, praticamente. Magari, magari White Room. Esattamente. Magari. Ok, Flavio, cosa dici allora? Beh, allora noi potremmo anche inserire un altro pezzo, visto che appunto i minuti sono pochissimi. Per stare insieme. Allora concluderei con un pezzo, ascoltiamo un ultimo da disco, in questo caso Have You Ever? E poi torniamo per i saluti, dopodiché Carlo ci ha promesso che ci farà ascoltare un suo ultimo pezzo. Esattamente, ok. Bene, allora partiamo con un ordine e andiamo con il prossimo pezzo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ordinary day. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, più distorto di così si muore. Have Your Ever, il sesto pezzo dal CD Me in the Row. Allora, un pezzo che dura anche, tra altre cose, molto poco rispetto agli altri pezzi. Sì, l'ho sempre visto come una cosa che viene e che se ne va allo stesso modo. Il testo potrebbe essere anche ciclico, volendo. Le persone che me l'hanno recensito a volte mi hanno detto che era un pezzo che era incompiuto. Questa è una delle critiche che io non accetto per un motivo. Perché come fai a dire, cioè, il pezzo è quello, perché pensi che il pezzo deve essere un altro modo? Qui ci sta deciso un minuto e 50, sì, e basta. O no, però non puoi immaginare il pezzo di un'altra persona, certo, in un altro modo, no, non ha proprio senso compiuto. E quindi io l'ho visto sempre così, in realtà, proprio sempre così incompiuto, questa... Comunque mai aver paura in questo caso, perché c'è sempre chi sa fare musica e chi non la sa criticare, ecco, e chi non la sa ascoltare dopo tutto. Sì, ci sono varie lacune un po' ovunque, insomma. L'importante è avere passione nelle cose e non perdersi di vista anche quando si fa il critico. Certo, certo, anzi, meglio le critiche, se sono positive e costruttive soprattutto, vengono ben accolte. Però una volta che un artista presenta un suo lavoro compiuto, è un po' difficile dirgli dovevi farla così o dovevi farla colà, a meno che non sia il tuo produttore, che allora però te lo dice in fase assolutamente preventiva. Esatto. Bene, allora Maurizio, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con Carlo Mazzoli, anche se vorremmo ascoltare ancora la sua 12 corde, però il tempo è sempre tiranno. Brevemente, per domani sera cosa bolle in pentola? Bolle in pentola è un brano, cioè una serie di brani di un gruppo di Mantova, sono il Terzo Binario, con la regia di Michele Tosò, e verranno a presentare il loro disco qui da noi alle ore 22 domani sera, chiaramente a Rock Wave, nell'appuntamento classico di Rock Wave. E giovedì, sempre con Agostino, dalle 21 alle 22:30 avremo una cantautrice di Fano che presenterà in anteprima i suoi nuove canzoni dal suo album. Benissimo, allora densi di appuntamenti live in questa serata. Non dimentichiamo che siamo ancora con Carlo Mazzoli, che ci ha promesso un'altra canzone. Intanto ti ringraziamo per essere stato con noi, ringraziamo anche il tuo tastierista validissimo e poi anche il poeta nonché romanziere, come l'hai definito prima, sì, Alessandro. Ecco, Lucibello. Ecco, benissimo. Quando potremo leggere qualcosa di suo? Chiedetelo a lui. Non ho portato niente. Vabbè, comunque sono nomi che si faranno sentire, insomma, nel tempo, quindi ecco. Allora, per salutarci, cosa hai scelto di fare, Carlo? Sempre un pezzo del trio, che poi in realtà, in maniera comica, vi dico che era previsto metterlo come chiusura del mio disco, però mi sono dimenticato. Mi sono dimenticato mentre facevo appunto le registrazioni di chitarra, eccetera. Era troppo tardi, a fin di soldi, neanche se ero un amico, ho deciso, ok, vada per Lanterne come chiusura e ciao, insomma. Quindi si chiama A Night on a Red Sofa, fa parte del repertorio di Dead Bouquet, quindi... Vabbè, diciamo... allora lo ascoltiamo. Sì. Maurizio, noi andiamo via, certo. Anzi, restiamo qui muti, intanto salutiamo il nostro pubblico. Ciao da Flavio Bilato. E da Maurizio Calzavara. Benissimo, allora vi lasciamo ancora con l'ultimo pezzo con Carlo Mazzoli. Grazie ancora Carlo di essere stato con noi. Grazie a voi. Beside her.